Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qua, buongiorno, bentrovati, sono le 11:08 del 31 di maggio. Maggio è il mese in cui le mamme vengono festeggiate e noi in zona Cesarini abbiamo proprio deciso di occuparci di loro. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e col sole c'è l'hai dentro al cuore, sole di primavera, su quello scoglio immaginato un fiore. E qui in studio per parlare con me ho due ospiti. Prima una mamma. Do il benvenuto a Sara Pozzoli. Ciao Sara. Ciao, buongiorno. Direttore di Nostro Figlio, che ha appena pubblicato per Mondadori un libro dal titolo Da mamma a mamma. E abbiamo Alberto Pellai, che ha pubblicato invece per Erickson il libro L'attesa, il percorso emotivo della gravidanza. Benvenuto Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Insomma, abbiamo scelto due libri che provano a raccontare la maternità da due prospettive molto differenti. Tu, Sara, scrivi, sei autrice del volume, ma insieme a te lo hanno scritto le mamme utenti del tuo sito, che è un sito che va molto bene, nostrofiglio.it, e l'impressione che ho avuto è che sia un libro corale. Esatto. La mamma o la futura mamma che lo legge ha un po' l'impressione di essere accompagnata da un gruppo di amiche che ci sono già passate e ti dicono stai tranquilla, ci sono io, è così. Sì, esatto. E infatti il sottotitolo inizialmente del libro era 9 mesi in compagnia di chi ci è già passata. E l'obiettivo, appunto, il filo conduttore sono tutte queste storie che abbiamo raccolto nei 4 anni di vita del sito, e in cui le mamme hanno parlato soprattutto delle loro emozioni, dei loro sentimenti, di tutto quello che hanno provato. Bellissimo, sì. Sì, io mi sono molto emozionata. Emozionata e anche immagino divertita, perché anche leggendo il libro ci sono delle storie molto divertenti in cui ci riconosciamo un po' tutte o riconosciamo la nostra amica. Sì, sì, sì, esattamente. 800 24 00 24, come sempre, questo è un tema che affronteremo da diverse angolature, sono invitate le mamme, le future mamme, chi mamma anche non è stato, ma i papà. 800 24 00 24, il numero verde è uguale. Alberto, tu invece fai un percorso differente, non la voce delle mamme, ma la voce di una mamma. Non resisto, afferro tutto, corro in bagno, mi sottopongo alla procedura che mi dirà quello che mi sembra di sapere già. Ho un solo giorno di ritardo del ciclo, mi è già capitato molte altre volte, eppure io non avevo questa sensazione addosso. Non ho mai fatto un test di gravidanza prima, è la mia prima volta. Ecco, ora devo aspettare un minuto, il minuto più lungo della mia vita. Mi sono detta non pensare a nulla, aspetta e basta. Mi concentro sul respiro, sento l'aria che entra ed esce dal mio corpo. La testa gira e io sono seduta, ma mi sento come sospesa nell'aria. Che stupida, non ho nemmeno controllato l'orologio per vedere quando partiva il minuto dell'attesa. Sarà già passato? E se guardo troppo presto? E se poi guardo troppo tardi e magari l'effetto svanisce? No, non resisto, devo guardare. E lì, dentro il piccolo quadrato bianco, ci sono 2 lineette rosa. Una di quelle 2 lineette sei tu. Il test di gravidanza descritto benissimo da Alberto, che sei riuscito a raccontare l'emozione di una mamma, è vero, capita così. E infatti questa è stata per me la sfida più interessante, cioè quando l'editore mi ha proposto l'idea di lavorare a un libro di narrazione al femminile su cosa succede nella mente di una mamma durante i 9 mesi di gravidanza, io ho detto ma questo è proprio un'invasione di campo. Poi in realtà io sono diventato papà 4 volte, quindi sono stato di fianco a una donna che diventava mamma, e forse il vantaggio poi di un uomo è che riesce a guardare quello che succede dentro a una donna, ma riesce anche a guardarlo da fuori, cioè a funzionare da osservatore, per cui la narrazione è diventata proprio un percorso chiaramente immaginato da me dentro i pensieri e le emozioni di una mamma, allo stesso tempo, avendo lavorato con molte mamme e molti papà, una raccolta anche dentro a questo percorso dei tanti pensieri, delle tante emozioni che ho sentito raccontare da neogenitori o da futuri genitori, un po' come ha fatto Sara con il suo libro. Esatto, infatti in un capitolo, Sara, tu racconti come le donne raccontano al loro compagno che diventerà papà, ed è un invito che rivolgo anche alle ascoltatrici di Essere Benessere e anche agli ascoltatori. Cosa e come vi è stato detto, Sara? Sì, le nostre mamme ci hanno sorpreso in un certo senso, perché appunto hanno dimostrato di avere molte fantasie, secondo me ha ragione. Nel comunicare, una delle cose più importanti nella vita di una donna è proprio la svolta, eh? È la svolta, esatto. E quindi appunto ci sono questi racconti anche molto divertenti. Ad esempio abbiamo una mamma che sveglia il marito alle 6 del mattino, 6 e mezzo del mattino, però gli dice che sono le 8 e mezza, che è tardi, è ora di andare a lavorare. Poi allora lui si alza, non capisce cosa sta succedendo e dice: cosa c'è? La mamma lo abbraccia forte e gli chiede un bacio e poi gli sussurra all'orecchio: amore mio, sono incinta. Lui non ci può credere. Lui sviene, perché la prima reazione, Alberto, dei maschi qual è? Di mettiti, cioè tu ti sei messo nella Carmela Lauricella ride, ma poi ci dirà come gli è stata data la notizia, perché lui è papà di due bambine. Intanto, Alberto, stai nella tua testa. Che cosa di solito fa un uomo quando gli viene detto sono incinta, aspetto un bambino, aspetto tuo figlio? Ma naturalmente dipende anche dal contesto, cioè lo stavano cercando, lo stavano aspettando, succede tutto all'improvviso, ma in generale gli uomini raccontano proprio come se nella testa parte un film dove c'è un prima e c'è un dopo, e in quell'istante tu ti collochi proprio tra quel prima e quel dopo, non sai che non sarai più quello di prima, non sai ancora quello che diventa. È molto interessante quando gli uomini parlano davvero in modo approfondito di quel momento, raccontano un mix di due emozioni molto forti. La prima è la felicità, in molti casi però anche la paura, è un senso di inadeguatezza, cioè la domanda cruciale per loro è: sarò in grado, sarò capace, ce la farò. 800 24 00 24, come l'avete raccontato? Come avete risposto, come avete reagito a questa notizia? Abbiamo tre copie del libro di Sara, da mamma a mamma, quindi attivatevi. Alberto farà un po' da giudice, sceglierà le notizie più attivanti, le comunicazioni più attivanti. Sì, oppure proprio anche le narrazioni che in qualche modo ci colpiscono e ci raccontano come il narrare, no? Il proprio ingresso nel territorio della genitorialità in qualche modo poi costruisce anche un po' il modello di genitore che diventeremo. Naturalmente oggi vogliamo dare modo alle amiche di Essere Benessere all'ascolto di raccontarsi come mamme, e anche su Facebook lo avete fatto. Voglio leggervi alcuni messaggi. Marilina: non so che mamma sono, spero brava, solo posso dire che concedo molto, lo sgrido poco, quasi niente, gli parlo molto dei valori della vita e cerco di spiegargli il perché di tutto ciò che mi chiede, mai sculacciato in quasi 4 anni di vita, forse per questo non sempre mi ascolta. Sabrina: mamma con un ex marito, che è il papà, ed un marito attuale molto presente, mai appiccicosa ma affettuosa, sempre sul pezzo, generosa e disponibile, ma anche un po' severa. Valerio è grande, ha 16 anni ed è ben voluto da tutto, sulle orme della mia mamma. Martino: oddio, ancora non lo so, sono mamma da poche settimane. Loretta: come mamma sono sempre molto apprensiva, anche se ora è sposata ed è molto grande, ma resta per me sempre il mio bambino e vorrei vederlo e sentirlo spesso, anche se così non è. Avrei forse potuto essere una mamma più brava e questo mi pesa un po'. Al contrario, la mia mamma è stata meravigliosa. Alberto, le mamme si raccontano, che cosa raccogli tu da questi messaggi? Ma in generale è molto interessante, intanto, che quando entri nel ruolo di mamma automaticamente fai una comparazione con la mamma che hai avuto, e questo succede a tutti in questa fase del ciclo di vita. Entri in un ruolo e automaticamente, un po' per possederlo, un po' per farlo diventare qualcosa di tuo, lo confronti con il genitore che hai avuto. Spesso c'è anche un'idealizzazione, no, della mamma che hai avuto, e è molto interessante in questi messaggi, perché in 2 su 4 c'è: la mia mamma era perfetta, ed è un po' come rivelare chissà se io sarò all'altezza del ruolo. In realtà mamma si diventa, credo che una delle cose meravigliose dei nostri figli è proprio questa, no? Che ci fanno diventare il genitore che siamo al loro fianco, non c'è un modello predefinito al quale tu devi aderire a priori, ma diventi genitore a fianco di tuo figlio, lui diventa tuo figlio perché tu gli sei genitore, e nel momento in cui lui nasce, tu nasci come mamma o papà. Ma la rete aiuta, Sara. Le mamme hanno un aiuto in più rispetto alle mamme delle generazioni passate, anche rispetto alla mia. Non, adesso le giovani mamme si confrontano, hanno i loro siti, forum, si scambiano consigli, placano ansie, si danno idee, suggerimenti. Sì. Nostro figlio è .it è proprio nato per dare informazione, ma per essere soprattutto un punto di riferimento per condividere le proprie esperienze e per confrontarsi, quindi appunto per placare le ansie. A volte o per condividere le gioie, perché adesso sembra che le mamme siano tutte ansiose, invece ci facciamo anche delle sane risate. Spettegoliamo un po', ci passiamo ricette, scorciatoie. Infatti, per trovare la soluzione. E a proposito di soluzioni, vogliamo provare a dividere i tre trimestri di gravidanza per dare anche un assaggio di quello che possono essere dei consigli utili per chi ci sta ascoltando. Il primo trimestre ci si muove un po', insomma, ci si deve un po' raccapezzare, grande entusiasmo, scelta del ginecologo, iniziano i primi dubbi. Sara, se tu dovessi dare proprio un consiglio a un'ascoltatrice di Essere Benessere che al primo trimestre di gravidanza, da mamma a mamma, quale... Da mamma a mamma sarebbe quello di appunto di accettare questo nuovo stato, di prendersi il tempo per accettarlo, è un grosso cambiamento, e quindi appunto di stare, cercare di stare sereni, insomma, con se stesse. Alberto, sì, credo che la conquista... i primi tre mesi, qua ti primi... voglio come medico, ma è fantastico perché io Alberto lo giro, allora è un papà, tac, poi giro medico, giro ancora psicoterapeuta dell'età evolutiva, tutto in uno. Alberto, i primi tre mesi di gravidanza sono mesi molto delicati, almeno sono vissuti così dalle donne, tanto che spesso alcune donne non dicono ad esempio di aspettare un bambino e arrivano dopo i tre mesi a comunicare. Carlo, proprio un po' per paura, un po' per scaramanzia, non te l'ho detto, ho aspettato i primi tre mesi. Sì, c'è lo scoglio del primo trimestre che sappiamo essere proprio una zona nel percorso di crescita dell'embrione e poi del feto, una zona un po' a rischio, per cui noi sappiamo che una gravidanza praticamente si stabilizza al compimento del terzo mese, e questo lascia proprio i genitori, la mamma in particolare, in una zona di sospensione totale, una sorta di bolla dove sai che stai diventando qualcosa di completamente differente da quello che eri prima, ma ancora non puoi fermare dentro di te quell'immagine, perché fermarla troppo presto potrebbe poi esporti al rischio di una delusione, di un dispiacere. Per cui io direi, usiamo il consiglio di Sara e diciamo, stiamo giorno per giorno nella situazione che ci troviamo a vivere, affidiamoci proprio al passaggio dei giorni e affidiamoci chiaramente al nostro medico di fiducia, che sarà la bussola che ci farà vivere con più tranquillità il primo trimestre. Prima di andare al secondo trimestre sentiamo Riccardo che ci chiama dalla provincia di Fermo. Intanto vi invito a chiamare all'800240024 ricordandomi che potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. L'hashtag di oggi naturalmente è mamma. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta. Eccoci buongiorno, qua. Il caso mio penso che sia particolare, perché il test di gravidanza alla fine l'ho acquistato io, perché mia moglie in realtà non aveva... Pronto? Sì, siamo qua, che l'ascoltiamo. Sì, mia moglie non era molto intenzionata ad avere un figlio, più che altro per la paura di crescere, di diventare da figlia a madre. Sì. E pertanto l'ho acquistato io e poi ho guardato io l'esito del test. È stato un po' così. Senta, Riccardo, che emozione! No, molto, molto grande, lo credo. Perché io ci tenevo, ecco. Lei... anche mia moglie ci teneva, però per questa paura di rimanere incinta e di affrontare la gravidanza era un po' più timorosa, ecco. E quindi Riccardo l'ha accompagnato, insomma ha fatto lui il primo passo, ha acquistato il test, ha contato il tempo e ha detto ci sono, Alberto. Ma direi che poi ci siamo, bravo, giusto. È proprio una storia molto comune, cioè essere perfettamente sincronizzati nel qui ed ora rispetto a quello che la vita ci sta chiedendo non è così facile dentro a una coppia, non lo è nella vita amorosa, perché non sempre uomo e donna sono sincronizzati e sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda in ogni momento, non lo è tantomeno di fronte a una trasformazione così radicale della propria vita che è quella del passaggio al ruolo genitoriale. Mi scrive Olga da Padova, io anche se in ritardo di 4 giorni ne ho aspettati 6 per il test, dice vabbè no, prendiamocela un po', per farlo di venerdì 17. Quando sono nata io, Olga, alla faccia delle superstizioni, e in quel giorno ho appreso la bellissima notizia, la bimba ora ha quasi 2 mesi e noi dopo questo SMS andiamo nel secondo trimestre di gravidanza, un trimestre ugualmente importante in cui la mamma si inizia a vedere la pancia, al primo figlio uno inizia a mettersi gli abiti pre-maman, poi con gli altri non ancora, no? Però col primo figlio anche vedere la pancia, ecco, il rapporto con la pancia che cresce è una cosa che è straordinaria. Andiamo. Adesso ci sei tu ad aspettare. Settimana scorsa abbiamo saputo il tuo sesso, abbiamo rivisto tutto di te con l'ecografia. È stata un'emozione enorme. A casa io ho continuato a guardare quelle immagini, avrei voluto averti fra le mie braccia, vedere come sei fatto, sapere già tutto di te. Invece non so nulla, devo solo stare qui ad aspettare, nutrirti attraverso il mio corpo e il mio sangue, farti crescere pronto per affrontare la vita quando uscirai da me. Attesa, e questa volta è lunga, 9 mesi, 40 settimane, 280 giorni, uno dietro l'altro con me a farti da scrigno, a immaginarti senza toccarti, a sognarti senza poterti avere qui. Sto pensando a te, alla voglia che avrei di toccarti e stringerti e non solo di sognarti. E tu all'improvviso ti fai sentire un piccolo colpetto al centro del ventre, un movimento impercettibile. Alberto. Ma questa è l'esperienza del primo dato oggettivo, finalmente lo senti. È chiaro che l'ecografia è un dato oggettivo, ma è una sorta di proiezione, no? Su un'immagine di quello che sta succedendo dentro al tuo corpo. Il primo movimento raccontato dalle mamme è un'esperienza fortissima, lo diventa anche tra l'altro per i papà, che quando pian piano cominciano a mettere la mano sul pancione della mamma e sentono sotto il loro bambino che scalcia, trasformano quel calcetto in un segno già di costruzione di una relazione con il proprio figlio. Sara, a proposito di ecografia, ne parlate diffusamente in un capitolo del tuo libro, perché le mamme si interrogano. Sappiamo che in base alle linee guida del Ministero della Salute le ecografie importanti dalla gravidanza offerte gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale sono 3, una per ogni trimestre, però tu hai raccolto molti dubbi allora e anche richieste di informazioni. Sì, perché appunto da un lato ci sono le linee guida del Ministero della Salute che appunto parlano di 3-4 ecografie durante i 9 mesi. Dall'altro le mamme si trovano che ogni mese devono fare questa ecografia dal proprio ginecologo. Quindi ci si chiede, visto anche appunto i tempi insomma di crisi, se siano proprio tutte così necessarie o meno, e quindi si confrontano tra di loro nel forum o nella fanpage di Facebook. E resta questo il fatto, le ecografie importanti sono 3, quelle per sapere se il bambino sta crescendo nel modo giusto e nel modo sano. Poi appunto, come dicono alcune mamme, la loro esperienza è questa: preferisco spendere ogni mese, farmi la mia ecografia, ma vedere il cuoricino che batte e vedere comunque il mio bambino. Anche questo, sempre pensando appunto come alla gravidanza, quello che comporta per una donna, secondo me va considerato, ecco. Allora, vi intanto arrivano da Loris, come avete detto al vostro compagno che sarebbe diventato papà, e se siete papà, come vi ricordate questo momento? Loris mi scrive: mia moglie mi diede questa bellissima notizia mettendo 2 piccolissime calzine nella scodella della colazione. Io, imbranato, ho capito dopo un po'. Allora, è troppo carino, Loris. Nicoletta, dalla provincia di Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Nico. Allora. Io sono stata una primipara attempata, come dicono in maniera vergognosa i medici, perché ho partorito quasi a 37 anni. Mm. Mi sono vissuta questi mesi godendomi tutte le coccole, le attenzioni che ti fanno amici, parenti e conoscenti, perché poi sono le ultime, perché dopo arriva il bambino e si è tutti concentrati su di lui. Sì. Mentre questo mese di attenzione alla mamma sono molto belli. Sì, e che cosa si ricorda di un'attenzione proprio che quasi le manca? Beh, ovviamente è proprio tutto concentrato su come sto, se sto bene. Io ho fatto una gravidanza senza problemi e da manuale, direi. Però proprio le attenzioni di non affaticarmi, di non farmi del male, di stare attenta, cosa, ma proprio l'essere al centro dell'attenzione. E se l'è proprio goduto? Sì, perché dopo il centro dell'attenzione si diventa giustamente, giustamente il bambino. Mentre questi mesi, per una primipara, per una che non ha altri figli, si è proprio al centro dell'attenzione. Nicoletta, stiamo chiedendo agli ascoltatori, e quindi lo chiedo anche a lei, abbiamo delle copie del libro di Sara Pozzoli, Da mamma a mamma, e cito con l'occasione anche l'altra autrice, Angela Bisceglia. Come ha detto a suo marito che sarebbe diventata mamma? Beh, l'abbiamo scoperto insieme, perché eravamo via in vacanza. Io ho sempre avuto un ciclo molto irregolare, per cui i ritardi non facevano testo assolutamente, però mi sentivo un po' strana, dormivo tutto, anche ma sedevo su un gradino al mare e mi addormentavo, per cui siamo andati insieme in farmacia a prendere il test di gravidanza, l'abbiamo scoperto assieme, poi siccome ero via con i miei, festeggia. Ero via con i miei genitori, poi gli abbiamo consegnato il referto, che ci hanno impiegato un po' a capire cos'era, ma è stato fatto tutto insieme. Grazie. E poi che la mamma non si spaventino per il parto, perché le donne fanno la gara a chi ha sofferto di più. Brava, ma Nicoletta. Non è obbligatorio soffrire. Allora, Nicoletta, infatti noi volevamo proprio lanciare e confrontarci con le nostre amiche di quanto il racconto che la nostra mamma ci ha fatto della sua gravidanza e del suo parto ci ha condizionato, influenzato, aiutato. Ad esempio, io ho avuto una mamma e anche una nonna che mi hanno sempre detto: la gravidanza è una cosa, un periodo straordinario, meraviglioso, il parto naturalissimo. Io sono arrivata al primo parto ed ero fresca come una rosa, come si dice. Ho sentito invece ragazze che facevano il corso preparto con me, che erano già preoccupate dal racconto delle loro mamme, che avevano descritto questi 9 mesi come un periodo fatto di nausea, divieti, difficoltà, e il parto come una cosa drammatica. Ecco, invito voi a confrontarvi con noi, raccogliendo anche lo spunto di Nicoletta. Grazie Nicoletta. Abbiamo il tempo di andare da Stefano dalla provincia di Vercelli? Forse sì, proprio perché è un maschio, perché forse è un papà. Carmelo Lauricella mi permette di salutarla. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dobbiamo andare ai mercati, lei sì. Mi lancia. È velocissimo, sì. L'intervento, volevo solo dire a tutti i papà di stare vicino alle future mamme, perché è un'esperienza bellissima, e di spendere un po' di tempo ad informarsi su cosa avviene nelle mamme, che cosa avviene nella gravidanza, perché mi trovo a volte a confrontarmi con dei padri che secondo me non hanno molto chiaro che cosa succede, perché mi parlano di travagli lunghi giorni, quando non è così, non sanno bene di che cosa si parla quando si tratta di dilatazione, di queste cose qua. Ecco. Insomma, Stefano, quindi si dice ai padri, ai futuri padri, informatevi e state vicino. Questo è il messaggio? Ma a me chiaramente, perché bisogna spendere del tempo perché certo. È una cosa troppo importante. Grazie Stefano, noi andiamo a sentire i mercati. Fate come dice Stefano. Voglio dare un consiglio a quelli che non hanno figli o comunque che non hanno figli piccoli: non chiedete mai ad una mamma: hai una foto di tuo figlio? A meno che non avete tutto il pomeriggio libero. Essere e benessere. Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone E oggi proprio in zona Cesarini parliamo di mamme, perché non, Alberto, bisognerebbe parlarne ogni giorno, ma comunque abbiamo in linea con noi Giovanna che ci chiama dalla provincia di Prato. Buongiorno Giovanna, benvenuta. Sì, buongiorno. Buongiorno. In realtà chiamo dalla provincia di Parma. Ah, va bene, a me hanno messo vabbè, dai, magari qualche volta sarà stata anche a Prato, no? Dai. No, mai, ma va bene. Vede, è una buona occasione. Va bene, Giovannina, mi dica. Allora, io volevo raccontare semplicemente, insomma, volevo portare la mia esperienza del racconto di mia madre del parto, in cui, insomma, ebbe me. E fu un parto molto bello, ha detto di mia madre, che mi ha, insomma, non ha mai condizionato la mia idea, no, del parto. E anzi, io ho un bimbo di 3 anni e il mio parto è stato meraviglioso. Anche l'unica cosa, mia madre mi disse che fece molto velocemente e io speravo anch'io di fare molto velocemente, cosa che non è stata, ma vabbè, questo insomma non è. Chissà se sua mamma gliel'ha raccontata giusta. Ma non lo so. Magari no. Comunque è vero, e lo chiederei anche ad Alberto, quanto è, e non ce ne rendiamo conto, è condizionante il racconto della mamma. Io penso per noi donne, ma immagino anche per gli uomini, ci sono mamme che tirano, no? Raccontano dei parti molto avventurosi. Sì, in generale devo dire che agli uomini arrivano pochissimo le narrazioni dei parti da parte delle loro mamme, spesso rimane un discorso molto più tra madre e figlia, tra donne, al femminile. Una delle cose, uno dei parti che viene invece più raccontato ai figli è il cosiddetto parto precipitoso, cioè quel parto che avviene così velocemente che in realtà diventa un'esperienza davvero problematica poi da gestire, nel senso che tu nel giro di 30 minuti hai fatto tutto, e questo è davvero uno di quegli eventi, magari c'è che qualche ascoltatore in linea che arrivi, ce lo può raccontare, che magari chiami il 118, quella è proprio una cosa che attiva tantissimo e che quindi diventa una sorta di leggenda tramandata di generazione in generazione. I parti rocamboleschi, tra l'altro se ne parla tantissimo nel forum, a noi donne piace raccontare il parto, esatto. Diciamo un po' la verità, piace raccontare, piace anche appunto leggere i racconti del parto, sono veramente molto molto letti, arrivano le mamme in dolce attesa e iniziano le domande, ma ragazze, ad esempio, a che cosa paragonereste i dolori del parto? E questa mamma appunto che dice, su internet alcune dicono che partorire è come partorire una palazzina con tutti i balconi. Mamma mia, che immagine! Questa è un'immagine terribile. Fortunatamente le altre mamme appunto la rassicurano e le dicono, sì, vabbè, i dolori sono forti, però appunto non preoccuparti, quando vedrai il pupo ti dimenticherai tutto. Come si chiamano? Infatti si chiamano i dolori del smantium, una cosa del genere, in piemontese c'è, che quelli sono quei dolori che, cioè, io penso che in ogni dialetto, no, ci sia un riferimento a questi dolori che li provi ma poi li dimentichi, ecco. Infatti, se no, non ne faresti, no, altri. Ci fermeremo i figli. Sì. E comunque, appunto, le mamme ne parlano tantissimo in rete, forse anche per cercare appunto di placare le ansie di fronte a questa cosa. Il consiglio, secondo me, più bello che è arrivato dalle mamme è quello di lasciarsi andare. Lasciarsi andare. Fabrizio, della provincia di Latina. Buongiorno Fabrizio, benvenuto. Buongiorno a voi. Ci racconta? Vi racconto che per noi la scoperta, appunto, insomma, ovviamente mia moglie di essere incinta, quello che avvenne nel bagno dell'ufficio con un test preso ovviamente insieme, e lo scoprimo lì un po' probabilmente di fretta, perché questo ritardo era un ritardo da forse 3 giorni, 4 giorni, qualcosa, quindi lì, insomma, da pochissimo tempo, quindi quando vedere già questo colore che non era poi pieno, ma già il fatto di intravedere qualcosa, dice ok, è fatta, fantastico, andiamo, quindi andiamo. Già incominciamo da allora ad avvisare tutti, quindi per noi fu una grandissima festa fin dall'inizio, dove magari qualcuno ci dice no, ma sai, aspettate, vediamo come prosegue, e questo è stato un cammino che poi ci ha portato anche ad avere un altro bambino dopo qualche anno, dove si è fatto praticamente sempre insieme, così come io ho partecipato assolutamente al parto di mio figlio prima. Cioè mia figlia prima, mio figlio un anno fa praticamente, dove tutti questi racconti che si fanno probabilmente c'è anche qualcosa di vero, oddio il dolore, oddio magari qualche travaglio un po' più lungo, però probabilmente bisogna partecipare insieme, quindi molte cose si superano se si riesce poi ad avere anche in quei momenti la partecipazione del babbo, insomma del papà, che normalmente viene lasciato per ovvie ragioni, insomma leggermente un po' da parte, però può essere d'aiuto. Può essere d'aiuto, direi Fabrizio che è fondamentale. Assolutamente. Grazie Fabrizio. Alberto, le mamme sono cambiate, ne parleremo tra poco anche con Loredana Lipperini che è in linea con noi. Ciao Loredana. Buongiorno a tutti voi. Ha scritto un libro molto bello di cui parleremo tra poco, ma Alberto, prima di parlare di mamme che cambiano e ci faremo dare una mano da Loredana, anche i papà sono cambiati. Ma sì, direi... Pensa tu, tuo papà in sala parto. Esatto, te lo direi che questa, la generazione dei nuovi papà, per esempio, fa una cosa che i papà, i loro papà, i loro nonni non hanno mai fatto, cioè essere lì dove sono, dove sta per nascere il loro bambino. E tra le altre cose è molto interessante perché molti uomini magari dicono lo faccio per stare vicino a mia moglie, lo faccio eccetera, ma molti altri uomini adesso lo dicono proprio lo faccio per me, lo faccio perché in quel momento sta succedendo una delle cose più importanti della mia vita e io non posso non esserci a quell'evento. Quindi insomma tutto sommato sono le 11:44, noi abbiamo tre stimoli che vorremmo condividere con voi. Allora, come avete detto e comunicato e ricevuto la notizia di diventare papà e quindi come avete detto che sareste diventate mamma, e quindi è una dimensione che coinvolge la coppia, comunque è la maternità, è qualcosa che coinvolge comunque la coppia, ma abbiamo chiesto anche alle ascoltatrici del momento del parto, se volete raccontare. Alberto suggeriva questi parti che passano, no? Vengono raccontati in famiglia proprio perché hanno dello straordinario, e il terzo invece volevamo rivolgerci quindi in modo particolare agli ascoltatori. Siete entrati in sala parto, l'avete fatto per assecondare magari un desiderio, il bisogno della vostra compagna, oppure come ha sostenuto anche Alberto dicendo lo faccio anche per me. Loredana Lipperini è in linea con noi, ma in questo dobbiamo dare la linea alle informazioni sul traffico e torniamo subito dopo insieme, perché di mamma ce n'è più d'una. Noi madri ci scateniamo nel momento della scelta del nome, proprio abbiamo la voglia di rovinarle a questi poveri bambini fin dalla nascita. Allora c'è gente, una mia amica ha chiamato il figlio Verde perché gli piaceva Hulk, cioè proprio la due miei amici non si sono mai messi d'accordo, lei lo voleva chiamare Sandra, lui lo voleva chiamare Amanda, alla fine l'hanno chiamata Salamandra. Essere e benessere. Loredana Lipperini, perché di mamma ce n'è più d'una? Perché così dovrebbe essere, perché i modelli di maternità dovrebbero essere tanti quanti sono le donne e non ridursi sempre e soltanto, soprattutto negli ultimi tempi, a due. Senti Loredana, ma nel frattempo tu dici due, prima ce n'era solo uno, quindi stiamo già, no? Andando un po' avanti, o no? Non lo so se ce n'era poi davvero soltanto uno, perché la rappresentazione mediatica delle mamme in fondo era cosa meno frequente rispetto a quella di oggi. Delle mamme naturalmente si parlava nei libri, ma la creazione del modello materno da diffondere attraverso i mass media è un po' più tarda rispetto a quanto ci è stato tramandato dai racconti e dalle narrazioni. Certamente negli ultimi anni, complice anche il marketing che si è accorto con molto interesse della presenza di un certo modello di madre, le cose si sono fatte più difficili, ma appunto quello a cui noi assistiamo è il proliferare di due modelli, la mamma ipernaturale, iperdedita, la madre che fa tutto per il proprio figlio rinunciando a qualsivoglia altra cosa, e la madre autodefinitasi acrobata, che è la madre, se mi passate l'ossimoro, perfettamente imperfetta. Perfettamente imperfetta. Vorrei confrontarmi con Sara, che sicuramente ha esperienza di mamme che dalla rete si raccontano e si confrontano, e quindi dai modelli che tu vedi. Sì, su nostro figlio arrivano mamme di tutta Italia, dalla grande città, ma anche e soprattutto forse dai piccoli centri. E io vedo che mi sembra di assistere proprio a un superamento di questi due modelli. La mamma acrobata, non lo so, forse è una cosa ancora da grande città, e la mamma iper tutto naturale, tutta dedita al figlio anche. Se io vedo più mamme che Mi sembra che cominciano ad accettarsi nella loro imperfezione e anche con allegria. Non sorridenti. Senti, Loredana, tu però nella copertina del tuo libro hai messo una copertina che Alberto mi faceva notare è molto particolare. Descrivicela. E dietro questa copertina c'è anche una tua lettura? Allora, la copertina non è di un grande autore come Art Spiegelman, che è l'autore di Maus, una meravigliosa graphic novel sull'olocausto. Era una copertina che è uscita sui magazine americani proprio nel giorno della festa della mamma, rappresenta una donna, un'operaia che lavora su un'impalcatura con il caschetto in testa e il figlio al seno. Mi sembrava che potesse rappresentare quella che almeno in rete è l'apparente contraddizione fra i modelli, perché ha molto ragione Sara poco fa quando ha detto che i modelli in realtà sono tantissimi, ma appunto quelli che emergono poi sono sempre soltanto due, cioè la madre che sceglie anche di abbandonare il lavoro, posto che poi questo lavoro per una madre si trovi, per rimanere a casa, e la madre che cerca di conciliare tutto. Adesso diamo la parola al nostro uomo, Alberto. No, io devo dire che ho letto il libro di Loredana Lipperini, l'ho trovato davvero provocante, cioè un libro che provoca il pensiero, che fa davvero entrare nella cultura di questo tempo. E tra l'altro, come psicoterapeuta devo dire che più volte mi sono trovato poi davanti a mamme che erano in difficoltà, perché non cercando il proprio modello di perfetta imperfezione, provavano ad aderire disperatamente ad un modello che entrava da fuori dentro di loro ed era chiaramente un modello non soddisfacente. Nel libro di Loredana lei tra l'altro mette molto generosamente a disposizione la sua storia di mamma, che è una storia davvero speciale, e allo stesso tempo trovo che fa un grandissimo dono a tutte le mamme, perché proprio io vedo una sorta di bodybuilding dei pensieri e delle emozioni delle mamme, un allenamento. Loredana, sono mamma veramente mia, commossa. Cioè, cosa si può dire? Ricordiamo il titolo di Mamma ce n'è più d'una di Loredana Lipperini, che invitiamo a tornare a trovarci per una puntata in cui ci auguriamo di avere più spazio per parlare di queste mamme in cambiamento. Grazie Loredana. Grazie davvero a voi, buona giornata. Giorgia dalla provincia di Piacenza, Claudio dalla provincia di Ancona. Buongiorno Giorgia. Buongiorno, io ho chiamato per raccontare l'esperienza del mio parto, che ho vissuto interamente con mio marito. E diciamo che lui diceva una frase durante il parto che secondo me è stata fondamentale per riuscire a viverlo serenamente. Lui mi continuava a dire: lasciati attraversare del dolore, che secondo me rende molto bene l'idea di che cosa si dovrebbe fare, anche se poi alla fine non è così semplice. Però lui per me è stato fondamentale e importantissimo, perché mi ha reso l'esperienza del parto un'esperienza molto bella. Io ricordo, e volevo aggiungere una cosa: non state parlando dell'inadeguatezza che molte volte la società, e io mi sono sentita inadeguata quando non sono riuscita ad allattare mio figlio. Allora, questo Giorgia è vero. Allora, Giorgia, le devo dire tra noi che in una puntata non si riesce a infilare tutto, che il tema della maternità è un tema ampissimo. Abbiamo cercato di così leggerlo, no? Da due tre angolature. L'allattamento è importantissimo, l'affronteremo con il tempo necessario in una prossima puntata. È vero che però molte donne, e Sara può confermarlo perché l'ho letto anche un po' nel suo libro, si sentono inadeguate se non riescono ad allattare. Ma poi mi piacerebbe affrontare questo tema con competenza, con esperti, e soprattutto per dare alle mamme all'ascolto un servizio come cerchiamo di darlo a Essere Benessere. Grazie Giorgia comunque del suo intervento e del suo suggerimento. Claudio dalla provincia di Ancona, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. La mia esperienza è bellissima. Io ho avuto la fortuna di avere due figlie e di vederle partorire nella stessa sala parto a distanza di 13 anni l'una dall'altra. Ho filmato e fotografato i momenti più teneri di questo evento. E adesso che ho una figlia lontana che vive in Nuova Zelanda, la più grande, mi ritrovo ogni tanto a guardare le fotografie e non riuscire più a distinguere la piccola dalla grande. È una cosa bellissima che... Grazie Claudio. Sì, ma la sento che emozionato. Invece pensi che Gigi D'Alecco mi scrive: sono un papà, ho assistito al parto del mio primo figlio, non ho capito niente davvero, neanche dopo 24 non si sa, riesco a capire qualcosa, ma sono un uomo, quindi incapace di capire. Gigi, non si butti giù. Alessio, buongiorno da Roma, benvenuto. Ah, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Oh, grazie, benvenuto. Grazie. Volevo sinteticamente raccontare la mia esperienza. Io ho avuto 4 figli che sono nati tutti e 4 in casa, in una dinozza di quelle del vino da 600 litri, con un'ostetrica, ed è stato veramente un momento impressionante, perché alla fine devo dire che è stato pure più semplice di quello che doveva essere, perché dopo un'ora che era nato il bambino stavamo io, l'ostetrica e mia moglie a mangiare gli spaghetti. Che bello, Alessio. E questa scelta è nata pure dal fatto che mia moglie aveva paura che spesso negli ospedali, per semplificare, utilizzano il cesareo, e quindi lei aveva paura di questo cesareo. Alberto, ma direi che è proprio una di quelle narrazioni che ci racconta che non c'è una storia, ma ci sono tante storie e ognuno ha la sua storia. Riprendo anche proprio il modo di raccontare del papà che ha chiamato prima, del papà che ti ha mandato l'SMS: non ci ho capito niente. Ma effettivamente non c'è niente da capire. C'è molto da sentire. Ecco, ha fatto la cosa perfetta. Come sempre. Allora, ringrazio Sara Pozzoli per essere stata con noi da Mamma Mamma, il libro di cui abbiamo parlato. Naturalmente abbiamo parlato anche del libro di Alberto Pellai, di cui abbiamo sentito due estratti, che così, se volete, potete riascoltarvelo, oltre che naturalmente leggervi il libro, che ricordiamo, Alberto, L'attesa, il percorso emotivo della gravidanza. Allora, volevo dirvi che per le mail che arriveranno a essere benessere@radio24.it, abbiamo pensato di, come abbiamo fatto nei giorni precedenti con altri ospiti, di chiedere ad Alberto Pellai di rispondervi. Laura Vanossi realizzerà un piccolo video che potete naturalmente andare a cliccare e a seguire. Per oggi è tutto. A chi vanno i libri? Abbiamo scelto due mamme, Nicoletta e Giorgia, e un papà, Stefano. Allora, grazie, per oggi è tutto. Carmelo Lauricella in regia, la parte tecnica. Non ci ha detto come gli hanno detto di diventare papà, e non può, dai, dietro il vetro. Laura Vanossi è in redazione e noi ci sentiamo come sempre lunedì. Avete un sacco di cose da poter consultare, vedere, cliccare sulla pagina di Essere Benessere. Io vi aspetto lunedì. Essere Benessere.